La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato agli 80 anni appena celebrati dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Nato a metà degli anni 30 dall'iniziativa di un gruppo di giovani ricercatori e docenti dell'Università di Milano e Pavia, con l'intento di avviare uno studio serio della politica estera. Ospite ai nostri microfoni Paolo Magri, vicepresidente esecutivo e da 16 anni direttore dell'istituto. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla guerra in Vietnam, 15 anni di conflitto che coinvolsero gli Stati Uniti d'America in aiuto al governo del Vietnam del Sud contro le forze insurrezionali filocomuniste. La parola va a Dino Pesole. Ottanta anni di politica estera del nostro paese, dal regime fascista alla repubblica, che ci portano indietro fino alla divisione del mondo in blocchi contrapposti, in piena guerra fredda, frattura che da noi si consumò in modo clamoroso con il rifiuto iniziale da parte della sinistra socialista e comunista dall'alleanza con gli Stati Uniti d'America, eventi che l'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, ha seguito e interpretato nella sua attività di analisi e di ricerca. Lo scorso 6 febbraio a Milano sono stati celebrati gli 80 anni dell'Istituto e il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ripercorso con queste parole uno dei passaggi più significativi di quel lungo processo che dal dopoguerra in poi ha portato poi negli anni 70 tutte le forze politiche di quello che allora si definiva l'arco costituzionale a far proprie le due linee portanti della nostra politica estera: il fermo ancoraggio all'Europa, la fedeltà all'alleato d'oltreoceano. Il punto di arrivo di quei processi di ripensamento e ravvicinamento venne segnato con la risoluzione davvero storica approvata dal Senato e dalla Camera dei Deputati nell'ottobre e nel dicembre del 1977, cioè nel periodo del governo di solidarietà nazionale. La risoluzione recava le firme dei rappresentanti e ottenne il voto dei gruppi parlamentari di tutti i partiti dell'arco costituzionale. Quei partiti si riconobbero solidalmente per la prima volta nel quadro dell'Alleanza Atlantica e degli impegni comunitari, quadro, cito, che rappresenta il termine fondamentale di riferimento della politica estera italiana. Quel comune riferimento fu sottoposto anche negli anni Ottanta a non trascurabili tensioni e prove, ma non venne mai più offuscato. Naturalmente si deve in generale osservare che mettere fuori discussione quelli che potremmo definire i due pilastri della collocazione internazionale dell'Italia non escludeva e non esclude la possibilità di distinzione e diversità di vedute su singole concrete scelte di politica estera. L'ISPI nasce il 27 marzo del 1934 nell'Aula Magna dell'Università di Milano. I fondatori sono un gruppo di giovani e giovanissimi ricercatori e docenti dell'Università di Milano e Pavia che auspicano uno studio serio della politica estera fondato sui documenti inteso nel loro senso più lato. La fedeltà al regime fascista è fuori discussione. Animatore e propulsore dell'ISPI è Alberto Pirelli, secondogenito del fondatore dell'impresa omonima, che dal marzo 1935 ne diviene presidente. Sebbene non esonerato dal rispetto delle regole della propaganda, l'ISPI può comunque contare sulla collaborazione di personaggi di spicco della cultura e della politica italiana dell'epoca, incluse figure ostili al fascismo, quali Federico Chabot, Adolfo Omodeo, Luigi Salvatorelli, Ugo La Malfa. Durante gli anni del conflitto mondiale, la rivista Relazioni Internazionali riesce a pubblicare materiali proibiti come i bollettini di guerra alleati e i discorsi di Churchill. Nel 1946 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia decide il commissariamento dell'ISPI, che diventa ISI, Istituto di Studi Internazionali. Soltanto il 30 dicembre 1948 viene deliberato il ritorno dell'istituto alla vecchia denominazione e Pirelli, tornato alla presidenza e affiancato da Gerolamo Bassani in veste di direttore, riprende la battaglia per il risanamento economico dell'istituto, riallacciando i rapporti sia con il governo sia con i maggiori centri di potere economico. Abbiamo in linea Paolo Magri, che è attualmente vicepresidente esecutivo e direttore dell'ISPI. Buonasera, dottor Magri. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, ci aiuti un attimo a capire in che modo l'ISPI in questi 80 anni ha accompagnato e letto con le sue analisi, i suoi approfondimenti, le profonde trasformazioni che hanno segnato la politica estera del nostro paese. Approccio interdisciplinare. Voi ricordavate alcune tappe della storia e in queste tappe della storia ci sono tutte le radici e le caratteristiche dell'ISPI di oggi. L'ISPI nasce da un incrocio fra accademia, cioè da docenti di diritto e di politica internazionale, che fin dall'inizio si alleano anche per necessità, perché c'era bisogno di fondi, con un esponente di un importante gruppo industriale, con la famiglia Pirelli. E quindi fin dall'inizio l'ISPI miscela queste tre componenti, gli aspetti giuridici, gli aspetti economici e gli aspetti politici. E l'altro aspetto caratteristico che voi avete ben ricostruito è quello dell'indipendenza, l'indipendenza con le cautele ovviamente che voi avete accennato. L'ISPI durante il fascismo dialoga col fascismo, il primo segretario Gaslini è uno dei dirigenti del GUF fascista, ma nonostante questa vicinanza al regime fascista, che è anche una tutela di copertura, c'è una forte presenza di voci antiregime, le avete citate, sia prima della guerra che durante la guerra. E anche dopo questa indipendenza dal potere centrale è rimasta. L'ISPI sicuramente dopo la guerra diventa un attento osservatore delle dinamiche europee e dei rapporti transatlantici nel periodo della guerra fredda, ma è in ISPI che Gorbaciov, nel prima visita in Italia, quando lanciò la perestroica, è in ISPI che venne a fare un discorso importante. Certo. Un dialogo attento e con un tentativo di affermare il ruolo di Italia potenza intermedia, che quindi deve dialogare con le parti in gioco. Il presidente Napolitano ha fatto cenno alle tappe che hanno condotto poi tutte le forze politiche a riconoscersi negli assi importanti della nostra politica estera: l'ancoraggio all'Europa, la fedeltà all'alleato d'oltreoceano. Lei si riconosce in questa lettura e ritiene che oggi questi due assi portanti della politica estera possano essere riaffermati, o c'è ancora qualcuno che li mette in discussione? Ci sono alcuni che li mettono in discussione. Pensiamo non tanto ai rapporti con gli Stati Uniti, ma è più messo in discussione in questo momento l'ancoraggio con l'Europa o un certo tipo di ancoraggio. Quando si parla di un'Europa tedesca, quando si attaccano le posizioni tedesche e si arriva a mettere in discussione il ruolo dell'euro, chiaramente questi sono segnali che non tutte le forze politiche, fortunatamente, ma alcune forze politiche lanciano, mettendo in discussione uno dei pilastri. Il presidente Napolitano, nel suo intervento che avete riportato in stralcio poco fa, ha anche accennato a una terza dimensione: questi due ancoraggi, ma anche il dialogo forte e intenso con i nuovi attori, con i nuovi emergenti. Ecco, e questa è la linea che l'ISPI di oggi ha fatto propria. L'ISPI del periodo fascista guardava comunque a Inghilterra e Francia, l'ISPI della guerra fredda guardava comunque anche al blocco sovietico, l'ISPI di oggi, pur nell'ancoraggio forte all'Europa e ai rapporti transatlantici, negli ultimi 10-15 anni ha aumentato, sia nella ricerca che nelle pubblicazioni che negli eventi, un'attenzione fortissima ai nuovi emergenti, e non solo i BRIC, ormai scontati, ma anche a potenze nuove come la Turchia, l'Indonesia, il Vietnam e altri paesi di questo tipo. C'è un'immagine che può farci capire questa trasformazione. A Palazzo Clerici, oltre all'ISPI, negli anni 50-60 erano presenti, e l'ISPI dialogava con loro, un centro che si occupava di rapporti transatlantici e un centro che si occupava di rapporti europei. Oggi all'interno dell'ISPI, di Palazzo Clerici, c'è presente presente la Fondazione Italia-Cina, e questo è un segnale dei tempi che cambiano, delle attenzioni nuove e forti che dobbiamo avere. Probabilmente anche l'ISPI più volte lo ha sottolineato, la risposta vera per far fronte a questi, come dire, attacchi anche che vengono all'Europa e all'Eurozona è più Europa e quindi più integrazione politica. Non ritiene che questo sia il passo ormai decisivo con il quale dovranno misurarsi i paesi europei nei prossimi mesi, soprattutto alla luce degli effetti della devastante crisi economica che si è abbattuta sull'intera Europa? È una linea tracciata, ma dobbiamo essere consapevoli, e qui è anche il nostro ruolo di osservatori e di diffusori di conoscenza, dobbiamo anche essere consapevoli che proprio nel momento in cui emerge, e l'abbiamo visto durante questa crisi, l'esigenza di maggiore Europa, emergono con forza, e non solo in Italia, atteggiamenti di dubbio e di incertezza nei confronti dell'Europa. Il fenomeno di disillusione sull'Europa c'è in Italia, ma non dimentichiamo che c'è in Finlandia, c'è in Olanda, c'è in Grecia, c'è in altri paesi, non parliamo di quanto sta avvenendo in Gran Bretagna, che pure è stato oggetto di un riferimento anche del presidente Napolitano. Quindi c'è bisogno di più Europa, ma c'è un'opinione pubblica che si allontana dall'Europa, e questo è l'aspetto delicato della fase che stiamo vivendo, sicuramente l'aspetto più delicato. L'aspetto più delicato è l'effetto della crisi, naturalmente. Quindi più Europa, senz'altro, l'ISPI ci ha anche abituato con i suoi studi e le sue riflessioni a capire meglio in che direzione stiamo andando. La ringraziamo molto, dottor Magri, e buona serata. Buona serata a voi e grazie. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla guerra del Vietnam. Attraverso le testimonianze dirette degli americani, che allora giovani presero parte in prima persona al conflitto, vi raccontiamo di una guerra lunga 15 anni, che segnò profondamente vite, coscienze e sentimenti di un'intera nazione. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 17 febbraio, alle 16.05 su History Channel. Nella primavera del 1969, 4 anni dopo il primo sbarco delle truppe di terra a Da Nang, ci sono più di 1,5 milioni di truppe americane in Vietnam. Ma la guerra, che per molto tempo riscuote il favore di quasi tutti gli americani, cambia drasticamente. Anni di crescente frustrazione verso una strategia militare che si concentra sul numero delle vittime nemiche piuttosto che sulla conquista del territorio fanno precipitare il consenso pubblico. Per la prima volta i soldati americani in Vietnam risentono degli effetti del movimento pacifista nel loro paese. Dopo aver condotto una campagna elettorale con la promessa della pace con onore, 6 mesi dopo essere stato eletto, il presidente Nixon incontra il presidente del Vietnam del Sud, Nguyen Van Thieu, e annuncia il suo piano di porre fine al coinvolgimento americano nella guerra. L'esercito americano inizia ora il lungo e complicato processo di ritiro delle proprie truppe e quello di addestramento dei vietnamiti del sud per prendere il pieno controllo del combattimento. La strategia viene chiamata vietnamizzazione. I nostri cuori e le nostre menti non sono qui. Sono a casa, dove la maggior parte di noi pensa di dover essere. Il 24enne Don DeVore è un artigliere della prima divisione di fanteria assegnato alla base d'artiglieria Jim, poco a nord di Saigon. DeVore, 9 mesi prima, riceve l'avviso di coscrizione nello stesso momento in cui sua moglie scopre di essere incinta. L'autunno scorso, quando mia moglie mi ha detto di essere incinta e io ho ricevuto l'avviso di coscrizione, ricordo di aver avvertito un forte senso di nausea. È stata una sensazione terribile. Non avevo nessuna voglia di entrare in servizio. Non volevo partire per il Vietnam. Abbiamo infatti tutti la stessa missione. Facciamola finita. Sopravviviamo e torniamo a casa dalle nostre famiglie. Tutti vogliamo andarcene alla svelta da qui. E nessuno di noi vuole essere l'ultimo uomo a dover morire per una causa persa. in Vietnam. Tutti hanno i nervi a fior di pelle. È brutto essere in mezzo a questa assurda realtà. E ora dobbiamo portare il peso di questi maledetti soldati dell'esercito della Repubblica del Vietnam. Gary Benedetti è un 24enne timoniere della flottiglia fluviale americana. Fa parte del processo di vietnamizzazione. Insieme ai suoi compagni marinai, sta addestrando i vietnamiti del sud a usare navi e armi americane nel delta del fiume Mekong. Con oltre 4.500 chilometri di fiumi tortuosi, ruscelli e canali, il delta è la versione marittima del sentiero di Ho Chi Minh, utilizzato dai soldati nemici per spostare uomini, armi e rifornimenti verso il sud. Le zone limitrofe al delta ospitano più della metà della popolazione. Circa 8 milioni di persone producono quasi il 70% del riso nazionale, rendendo tali aree le più contese della regione meridionale. Gary Benedetti. Non so proprio come faremo a farci sostituire da questi ragazzi. I nostri militari sono stati per anni in questi fiumi cercando di fermare i Viet Cong e ancora oggi la situazione è difficile. Se posso dire la mia, secondo tanti ragazzi con cui ho lavorato in quella zona, non sembrava affatto una buona idea. Non possedevano una competenza tecnica a livello navale. Questi ragazzi cresciuti nelle risaie sapevano solo sparare. Un contadino sa sparare, ma sa anche riparare un trattore. Questi ragazzi non avevano i trattori, ma usavano gli animali. Quindi metterli su un mezzo di trasporto simile era impossibile, soprattutto in una situazione come questa. I Viet Cong ci tendono imboscate continuamente e quando lo fanno dobbiamo dare il massimo per fermarli. Dimenticate la vittoria. Bisogna dare il massimo solo per sopravvivere. Non ci sono parole per descrivere questo posto. Tutto quello che posso dire è che Woodstock è un luogo strano e selvaggio. Amo ogni minuto trascorso qui. Il mondo di Don DeVore cambia di colpo. 3 giorni prima è in Vietnam, ora torna a casa per un permesso di emergenza perché sua moglie sta per partorire. Lei e il bambino stanno bene, ma il posto in cui vivono subisce un notevole cambiamento. Tutte le strade qui intorno sembravano un parcheggio affollato. Ho pensato che forse c'era stato un incidente o qualcosa del genere. C'erano così tante macchine. Ho acceso la radio e stavano parlando di Woodstock. Così ho chiamato alcuni amici che vivono lì vicino e quando sono arrivati ci siamo detti: andiamo a Woodstock. Well, come on, all you big strong men. Uncle Sam needs help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books, pick up a gun. A parte il fatto che sono l'unico ragazzo con i capelli corti, mi sento di far parte più di questo gruppo che di quello in Vietnam. Questo posto non è in sintonia con il Vietnam. Sono due mondi completamente diversi. Ma nonostante faccia di tutto per togliermelo dalla mente, so che non durerà per sempre. Tra un paio di giorni, finito il permesso, Woodstock, la mia famiglia e mio figlio appena nato saranno solo un ricordo lontano. Perché tornerò in Vietnam. Dopo una settimana in America, Don DeVore torna alla base d'artiglieria Jim. Lui e i suoi compagni vengono a sapere che Ho Chi Minh, il leader comunista del Vietnam del Nord, è morto. Dicono che dovrebbe esserci un cessate il fuoco per la sua morte, ma abbiamo imparato dal Tet che qui il cessate il fuoco non vuol dire un bel niente. Per tutto il giorno le nostre unità in campo hanno chiamato i rinforzi dell'artiglieria. Scommetto che abbiamo esploso almeno 1.000 colpi nelle ultime ore. Come tutte le basi di supporto, la base d'artiglieria Jim fornisce sul campo fuoco di copertura per le unità di fanteria americana o per i vietnamiti del sud. Quando queste truppe sono sotto attacco, la loro sopravvivenza dipende dalle basi più vicine. Donald DeVore. Cala il tramonto e in quel momento la situazione si calma, ma noi rimaniamo sempre allerta. Non sorprende che le forze nemiche lancino la maggior parte dei loro attacchi di notte, avvolte dall'oscurità. Le basi d'artiglieria, come la base Jim, sono considerate obiettivi primari, dato che sono stazionarie e i Viet Cong hanno abbastanza tempo per individuare qualsiasi punto debole. Di giorno siamo più forti, ma i vietnamiti del nord, i Viet Cong, erano i padroni della notte. Era il loro momento. Io ho sempre pensato che fossero avvantaggiati perché molte delle nostre armi moderne e tecniche di guerra non erano adatte per le ore notturne. Ed è di notte che eravamo più vulnerabili. Alcune delle basi vicine sono state colpite la notte scorsa, quindi sono tutti con i nervi a fior di pelle. Io e altri 5 ragazzi siamo stati assegnati di guardia al bunker antincendio. I nostri ordini sono di segnalare tramite radio le coordinate non appena si individua un bersaglio. Anche se in questo istante sono così teso che riesco a malapena a parlare. All'improvviso sento un'esplosione provenire dalla sommità del bunker. Non ero sicuro cosa fosse, ma vedevo gli sguardi nervosi dei miei compagni. Ho sentito qualcuno dire che sembrava l'esplosione di una granata a propulsione. Nel giro di pochi istanti eravamo tutti nel panico. Ho sentito qualcuno gridare che c'erano degli uomini vicino al recinto, che significava che le truppe nemiche stavano arrivando. Credo che esplose proprio ai miei piedi, e fu quello a colpirmi. Mi alzò letteralmente da terra di qualche metro e poi mi scaraventò di nuovo giù. Poi sentì un dolore fortissimo sulla parte sinistra del corpo. Quando giro lo sguardo sul mio braccio sinistro, vedo che è dilaniato e immerso nel sangue. È l'ultima cosa che ricordo prima di perdere i sensi. All'alba l'attacco alla base d'artiglieria Jim è terminato. Come al solito i nemici si ritirano alle prime luci quando l'attacco di fuoco degli americani è di nuovo efficace. Quando riapro gli occhi vedo un gruppo di ragazzi attorno che mi acclamano. Come quando un giocatore di football si fa male sul campo da gioco e viene trasportato in barella tra le grida della folla. Non appena decolliamo, un senso di calma mi pervade. Dal portellone riesco a vedere che sta per sorgere il sole. Il cielo è rosso porpora. Penso solo che sono ancora vivo. Questa pazzia è finita per me. Nell'autunno del 1969 il movimento pacifista è in fermento. Il 15 ottobre più di 1 milione di persone in tutta la nazione, proveniente da piccole e grandi città, partecipa alle manifestazioni pacifiste contro la guerra in Vietnam. Nel frattempo, nonostante il numero totale delle truppe diminuisca, il comando militare ha ancora bisogno di uomini da inserire nei ranghi e di arruolare un numero sufficiente di persone. Per anni le sezioni locali di commissione di leva vengono ampiamente criticate per la politica di rinvio che agevola gli studenti e i benestanti. Quindi il 1 dicembre 1969 il servizio di leva organizza la sua prima lotteria dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. 336 palline di plastica, ognuna contenente un giorno di nascita diverso, incluso il 29 febbraio, sono estratte per determinare una chiamata al servizio di leva completamente casuale per i giovani di età compresa tra i 19 e i 25 anni. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Vietnam in HD, la caduta di Saigon. Regia di Sammy Jackson, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione AETN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 17 febbraio, alle 16.05 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.